Ferry Boat, in viaggio verso l'economia sociale. Enzo Arganti, il traghettatore. Questa puntata restiamo in movimento perché parleremo di mobilità sostenibile soprattutto, e cominciamo dalla fiera di Bolzano, dove dal 22 al 24, quindi subito dopo rientro dalle vacanze, ci sarà una fiera dedicata alla mobilità sostenibile nell'ambito di Clima Mobility, e in questa area si proporrà un car test dove visitatori e pubblico professionale potranno provare nuovi veicoli con le nuove tecnologie e innovazioni che rendono più compatibile con l'ambiente il mezzo. In particolare ci sarà anche un bike test area dove sarà possibile provare veicoli elettrici, in particolare le bici e i Segway, che sono quegli strani oggetti su due ruote che vediamo alle volte nelle grandi città. Ma non è solo questione di mezzi di locomozione a impatto zero o presunti a impatto zero, è anche una questione di modello, di progetto, di micromobilità. Questo è il titolo che ha dato il professor Fabio Casiroli del Politecnico di Milano. Buongiorno professor Casiroli. Buongiorno a tutti. Ad una teoria che è una sua teoria specifica, che basa tutto non tanto sullo spazio quanto sul tempo. Allora cominciamo con lo spiegare che cos'è la micromobilità. Sì, dunque, intanto devo premettere che per chi si sposta in città usando i mezzi pubblici il problema, come ben sappiamo, è coprire il primo e l'ultimo miglio. E io direi che per farlo occorre pensare a un trasporto pubblico individuale oltre che collettivo, quello che ho chiamato micromobilità, cioè un sistema che prevede centinaia di ecostazioni popolate da piccolissime autovetture elettriche, da biciclette tradizionali o da biciclette a pedalata assistita, che possono essere prese a noleggio, idealmente con lo stesso biglietto usato sul treno, sul metro, sul tram, sull'autobus. Primo e ultimo miglio vuol dire il tratto di strada da casa al luogo, diciamo, in cui inizia il percorso, così? Esattamente, il primo è la differenza con i sistemi di connessione digitale, è proprio questa, che mentre per la connessione digitale noi abbiamo soltanto l'ultimo miglio, quindi il percorso sostanzialmente che giunge nelle nostre case, con la mobilità invece abbiamo il doppio problema: uscire da casa e avvicinarci alla fermata del trasporto pubblico e poi, una volta abbandonato il servizio forte, percorrere l'ultimo tratto che ci separa dalla nostra destinazione finale. Certo. E quindi in questo caso, con questi parcheggi dove ci sono, immaginiamo, strumenti molto, mezzi di locomozione molto a impatto zero, va da sé, ma anche molto semplici ed economici da utilizzare. Questa sarebbe l'idea, evidentemente. L'ideale sarebbe poter utilizzare lo stesso abbonamento che usiamo sui mezzi di trasporto pubblico tradizionali, metro, autobus, tram e quant'altro. Ecco, quindi arrivo, prendo la bici, arrivo, la parcheggio, prendo i mezzi, raggiungo la destinazione e così di ritorno. Tutto questo le ha consentito di elaborare un'analisi, per esempio, su Milano, no? Sì, su Milano, diciamo sul tempo, che abbiamo fatto un'analisi abbastanza specifica, soprattutto sulla circolare 90-91, che secondo i ragionamenti che abbiamo fatto al Politecnico potrebbe essere la vera linea circolare forte di Milano. Non c'è bisogno di un costosissimo metrò, basterebbe un sistema di filoviario, quello che abbiamo sostanzialmente, ben protetto, con semafori asserviti, che potrebbe ridurre il tempo di percorrenza lungo tutto l'anello della circonvallazione dagli attuali 90 minuti a circa 55 minuti. Questo vuol dire una città più vivibile, una città più facilmente gestibile per la mobilità. Grazie professore. Grazie, buona giornata. Chiudiamo parlando di rifiuti, un argomento sempre al centro dell'attenzione mediatica. Per una volta non si parla di emergenza, ma di cultura della riduzione dei rifiuti, un elemento chiave anche per dare un futuro più stabile e meno clamoroso al nostro giro di rifiuti. È per questo che vi segnaliamo che fino al 15 ottobre, ancora poche settimane, sarà possibile iscriversi alla terza edizione della Settimana Europea per la riduzione dei rifiuti, che poi si svolgerà dal 19 novembre. Questa manifestazione, che nasce nell'ambito del programma europeo Life Più, è rivolta proprio alle istituzioni, ai cosiddetti stakeholder, a tutti quelli che sono protagonisti della filiera dei rifiuti, anche ovviamente ai consumatori, con l'intento di creare questa cultura della riduzione dei rifiuti. Per partecipare e diventare project developer basta compilare la scheda di adesione, vi diciamo l'indirizzo, è ecodallecittà.it, ovviamente città senza accento. È tutto per la puntata di Ferribot di oggi, grazie a Fabio Cantadori in regia, ad Anita Panizza in redazione. Alla prossima.